cose che succedono in Lombardia. E 52 minuti, andiamo a Gorgonzola con la nostra Eleonora Brianzoli. Buongiorno Eleonora. Ciao Alessandro. Allora, siamo lì perché questa mattina a Gorgonzola doveva essere sgomberata una famiglia rom, una vicenda che dura ormai da alcuni mesi. Mi pare che prima avessero buttato giù con le ruspe la casa che avevano costruito queste persone su un terreno agricolo, poi erano riuscite ad ottenere un alloggio, una casa, da cui oggi invece vorrebbero cacciarli. Cosa è successo questa mattina? Stamattina ha scampato pericolo, dalle 7:30 qui ci sono una trentina di persone in presidio appunto con Omar e la sua famiglia, hanno appeso uno striscione al cancello del condominio, la casa è un diritto. Omar è un cittadino italiano, è nato a Bollate e sua madre è nata a Milano, sono di etnia rom, vivono qui a Gorgonzola da 12 anni, 12 anni fa infatti avevano comprato un terreno agricolo dove si erano stabiliti appunto costruendo una baracca con una roulotte che, come dicevi tu, ad agosto dell'anno scorso è stata abbattuta perché il comune ha contestato l'irregolarità di questa costruzione su un terreno agricolo. A quel punto Omar si è trovato in mezzo a una strada con sua moglie, la figlia di 2 anni, suo fratello appena maggiorenne e il padre, che è un invalido civile. I vigili si sono rivolti a un cittadino egiziano che ha una pizzeria qui a Gorgonzola, aveva un appartamento vuoto, chiedendogli di metterlo a disposizione di Omar e della sua famiglia. E sono stati gli stessi vigili ad accompagnare Omar con un fabbro in questa casa, il fabbro ha scassinato la porta e li ha fatti entrare. Hanno trovato una casa in condizioni igieniche disastrose e questa è stata la ragione per cui l'ASL ha negato l'abitabilità. A quanto pare proprio la mancanza dell'abitabilità è a questo punto all'origine di un'ordinanza di sgombero che il comune ha emesso giovedì scorso. Ora qualsiasi momento è buono per eseguire questa ordinanza e quindi l'Unione Inquilini, che sta seguendo la vicenda, ha convocato appunto questo presidio in solidarietà con Omar e chiedono che prima che venga eseguito lo sgombero gli sia assegnato un alloggio popolare. Bene, grazie Eleonora Brianzoli, con te ci risentiremo in Metro Regione per capire come andrà a finire questa vicenda. Buona giornata. Cose che succedono in Lombardia.